voce. Federica Fracassi legge Sillabari di Goffredo Parise. 14ª puntata. Noia. Un giorno un uomo che spesso si illudeva, ma non troppo, di poter scovare nei suoi simili e nella vita qualche motivo di novità, di imprevedibilità e addirittura di mistero, come nei romanzi gialli, si trovò a colazione con un gruppetto di conoscenti in un bel terrazzo sul mare. La ragione delle sue speranze nasceva dal fatto che da più parti aveva sentito dire: «La vita è sempre imprevedibile, talvolta romanzesca, mai noiosa». Convinzione che l'uomo sotto sotto non condivideva, avendo vissuto 60 anni di avvenimenti che, a partire dai 25-30, erano stati tutti previsti o quantomeno prevedibili. C'erano stati sì dei fatti personali, apparsi esaltanti e subito dopo noiosi. Qualche volta, tuttavia, era stato piacevolmente smentito, ma erano avvenimenti di pochissimo conto. Una volta era stato chiuso dentro un ascensore per più di 10 ore, imprevedibile. Un'altra era rimasto senza benzina nel mezzo del deserto dell'Arizona, prevedibile ma sorprendente. Altre volte ancora si era sentito attratto dalla sperata novità nel volto e nell'atteggiamento di alcune persone che in realtà lo avevano sorpreso e interessato per pochissimo ma anche per moltissimo tempo. Ma anche queste persone, purtroppo, erano finite per diventare prevedibili grazie a un meccanismo selettivo che finiva per individuare le ripetizioni, cioè i tratti noiosi. Un certo stile nelle persone e il candore, quello sì lo colpiva e non lo annoiava, ma era cosa rara, come un lampo, e il candore nei bambini durava poco. Quel giorno sul mare egli non aveva particolare motivo di speranza, osservando i suoi ospiti, ma nemmeno di profonda delusione. Si trattava di quelle tavolate di famiglie borghesi, dando al significato della parola borghese quanto di meglio si può dare, cioè quel certo calore familiare che nasce soprattutto dalla presenza di ragazzi e bambini anche piccolissimi, dei quali ultimi si sa che strilleranno, come è prevedibile, ma non quando strilleranno. E già questo era qualche cosa. C'erano ragazzi e ragazze sui 15-16 anni, età curiosa e, se vogliamo, interessante per la prima apparizione o dissimulazione del carattere. C'erano ancora una coppia di sposi sui 35 anni, dall'aria al tempo stesso dignitosa e mogia, che egli non aveva mai visto, ma che si sarebbe divertito un po' a guardare. I padroni di casa e altri ancora. Cominciò a guardare i ragazzi e le ragazze. Queste ultime erano due, entrambe carine e, come sempre per le femmine di quell'età, con qualche cosa di innocente e trepidante che dava loro un'aria aperta e gentile. Non così i ragazzi, uno dei quali, e non a causa della presenza delle femmine, rispettivamente sorella e cugina, aveva assunto un'espressione del volto schifiltosa e piena di superiorità e di presa in giro, non si sa verso chi e per quale ragione. Ma ce ne sono tanti di questi tipi tra i ragazzi. L'altro poi aveva un occhio, uno dei due occhi, che gli parve addirittura losco. Losco nel vero senso della parola, cioè quasi acciaccato e diverso dall'altro con cui sogguardava tutti. «Ma è l'età, non l'occhio che è losca», si disse l'uomo, colpito da quell'occhio che pareva celare verso i grandi e specialmente verso il padre un vero e proprio odio. Da questa età uno comincia ad essere quello che è e sarà per tutta la vita. Forse questo qui non sarà un conclamato delinquente, ma avrà certamente nei confronti della vita un atteggiamento losco come il suo occhio. Così riflettendo arrivò il cibo, prevedibile e buono, insomma un po' noioso, dopo il cibo la conversazione. La coppia di sposi che erano ospiti cominciò ad accudire alle proprie faccende, cioè quello che una coppia ospite deve fare quando è in casa da altri. La donna prese in braccio i suoi gemelli che incominciarono tutti e due a frignare e il marito girò intorno al tavolo rotondo a scattare fotografie all'uno e all'altro, poi a tutti insieme, scrivendo meticolosamente gli indirizzi per poi poterle spedire una volta sviluppate. L'uomo, che non li aveva mai visti prima di allora, e già questa era una novità, cominciò a fare per passare il tempo quel purtroppo ogni giorno più rapido lavoro di osservazione o di setaccio sui volti e sugli atteggiamenti dei due sconosciuti, così da cavarne un'impressione generale. Non ci volle molto. La donna era veramente scialba e triste, una che si era sposata perché doveva sposarsi e aveva saputo unire, per istinto e fortuna, il dovere del matrimonio con il dovere dell'amore, sia coniugale che familiare. Aveva delle sopracciglia che guardavano in basso come piangenti e così gli angoli degli occhi. Una fessura tra i denti incisivi che probabilmente durante l'adolescenza e la giovinezza era potuta sembrare attraente così da trovare un fidanzato e perfino sposarlo. Dopodiché, una volta assolta quella funzione, la fessura tra i denti aveva smesso di dire qualcosa. Ma tutta l'espressione fisica e verbale parlava pochissimo. Gentilmente, con molto senno e voce flebilissima, giunta alla maturità dei 35, era quella di una madre e di una sposa che si poteva benissimo immaginare a 50, a 60 e a 70. Insomma, c'era nella donna, per quanto debole e mogia, una certa forza modesta e familiare che prometteva fedeltà e continuità per tutta la vita a venire. Il marito, invece, estremamente mogio anche quello, prometteva sì, anche lui, continuità e fedeltà familiari, non così longevo tuttavia, ma si sarebbe detto quasi rassegnato e controvoglia, come dire, avrei potuto e potrei fare di più con le donne e con la vita. Era un dirlo senza dirlo, più agli altri che a se stesso. Egli sapeva dentro di sé che oltre quella moggeria non avrebbe mai potuto andare, ma sperava che gli altri, per una sua certa dignità formale, educata e per così dire di belle speranze coltivate dalla madre inglese, fossero così gentili e buoni da pensare così. Al tempo stesso sapeva che per quanto buoni non potevano, era impossibile che pensassero così. Per i suoi occhi acquosi di vecchio, per la sua pappagorgia, per i seni cadenti sotto la maglietta e soprattutto per il suo sedere di grasso dimagrito, sedere di oca, che proprio come un'oca muoveva qua e là. Fece intendere che il suo lavoro di manager lo obbligava ad abitare a Torino, dove aveva comprato una casa. E qui si inoltrò nei dettagli dei prezzi delle case, quanto costava un metro quadrato qui e quanto là, e quante stanze, quanti servizi, concludendo che avevano una casa piccola, piccolissima, ma pratica. Quello dei prezzi delle case fu il suo pezzo forte. Era chiaro che aveva ponderato con molta ansia come e dove spendere i soldi che non erano suoi, ma della famiglia, per una casa che avrebbe dovuto essere quella di tutta la vita, a Torino. Ogni volta che ne parlava, e nel farlo assumeva un povero tono di intenditore di materiali, di piastrelle, di porcellane da bagno, la moglie lo stava ad ascoltare con i gemelli in braccio, molto brutti a dire il vero, tutti e due, pure approvandolo in ogni sua parola. Non poteva fare a meno di curvare ancora di più gli angoli degli occhi e delle sopracciglia come per scusarlo, per scusarsi. La tacita e mimica scusa le pareva, per così dire, richiesta, come se la buona educazione la obbligasse a farlo. La conversazione si fece anche un po' politica, naturalmente, e il manager disse che si sentiva, era e votava liberale. Lo disse con pochissima convinzione di tutto il resto, salvo il prezzo dei metri quadrati delle case, come per far intendere che egli era, per ragioni di famiglia, un conservatore, all'inglese come la madre, all'americana. Così mogia, anche se ammantata di dignità appunto liberale, fu questa dichiarazione di voto e questa parentesi politica, che tutto finì lì. I ragazzi e le ragazze si annoiavano. Come sempre si annoiano con i grandi, i ragazzi di quell'età, e se ne andarono. Si guardò il mare, su cui si stagliava una vela bianca a righe blu che con il sopraggiungere di un po' di vento si gonfiò. I padroni di casa, vispi e molto efficienti, si davano da fare per portare avanti e indietro dalla terrazza alla cucina i piatti con i cibi non finiti, i bicchieri e tutto il resto. Si muovevano con la disinvoltura della proprietà della casa e dell'efficienza che, nonostante la buona volontà, mancava ai due sposi ospiti. Era inevitabile che a questo punto si parlasse di personale domestico. Ma l'argomento fu spazzato via dalla padrona di casa con la seguente frase: «Bisogna arrangiarsi e basta». Tuttavia l'uomo, che stava ad osservare, provò ad immaginare la vita dei due coniugi e gemelli a Torino, nell'appartamento pratico, ma certamente privi di persone di servizio. Lo immaginò anche con l'aiuto di alcune fotografie a colori che furono distribuite agli ospiti e in cui, da qualche particolare, si poteva indovinare l'appartamento e la vita familiare che vi si conduceva. I due sposi in vestaglia con i gemelli, uno a testa, un muro di fondo color crema, lo schienale di una sedia moderna, tazze da tè di maiolica color rosso acceso, un quadro moderatamente astratto. Poi, di colpo, apparve la fotografia di una bambina, la più vecchia, che lì non c'era, di 9-10 anni. Un'oca, con un naso a becco, gli occhi piccoli e rotondi ai lati di una testa pallida, il sedere grosso e basso e perfino due mani grandi e quasi palmate da oca. L'uomo, come costretto dalla buona educazione, dalle lavate di capo prese durante l'infanzia e per una buona e umana intenzione di giudizio, pensò: eppure hanno un cuore anche loro. Pensiero scemo e non suo, affiorato da chissà dove, ereditato certamente dalla cosiddetta convivenza civile. Pensiero mieloso e stupido, di cui sorrise, ma a quel punto, sopraffatto dalla noia anche di se stesso, chiese scusa e se ne andò. Nostalgia. Un giorno di un'estate lontana, una donna di circa 40 anni, dall'aspetto però fanciullesco e roseo, con occhi celestini, si dice sempre azzurri, e una carnagione come gonfia, preparò il suo animo a una gita, più che altro una passeggiata, di cui ebbe nostalgia. Si trovava in una specie di villeggiatura, strana villeggiatura, trattandosi di un semi-ospizio per vecchi, sul cucuzzolo di una collina, diretto da una ex maestra elementare enorme, gialla in volto e cieca, con le orbite vuote. Era, come si dice, una villeggiatura di mezza montagna e come tale a buon mercato. Laura, la nostra protagonista, l'aveva scelto per questo. Non c'era assolutamente nulla in quel luogo di bello o di interessante, salvo l'aria fina, le arie, essendo a 350 metri sul livello del mare. Ma c'era caldo anche lì, qualche volta. La vita di villeggiatura, se così si può dire, si svolgeva tutta in pochi metri intorno all'ospizio. I vecchi non si vedevano mai, molto raramente uscivano, essendo quasi tutti morenti, composto di una casa e di una chiesetta. Il campanile era distaccato a metà strada tra la casa e la chiesa e visto da distanza pareva un piccolo torrione con due corna. Al di sotto del cocuzzolo serpeggiava una strada che scendeva in pianura tra roveti e improvvise schiarite di praticelli in declivio, sassosi, infuocati di sole e popolati di vipere. C'erano anche molte lucertole, ramarri e in una pozza di acqua piovana ai piedi del campanile milioni di girini e qualche rana. poco distante un grande bosco di castagni, con terra arrossata dalla loro linfa, dove era sconsigliabile entrare per non perdersi. Tante e diverse erano le tracce di smottamenti nel suolo, che parevano sentieri, ma non erano. Qui si diceva vi fossero porcospini e tassi, quasi ad arricchire di qualche cosa la nessuna fama del luogo, ma pochi però riuscirono a vederli e senza alcuna certezza, data la sonnolenza e la timidezza di quegli animali. Dirigeva la piccola pensione ospizio agli ordini della maestra cieca una nipote di questa, piccolissima e con un nasino corroso dal lupus. Ospiti paganti erano, oltre Laura e il figlio dodicenne che trafficava clandestinamente con zolfo e potassio per fabbricare bombe, un ingegnere navale fuggito da Bengasi l'anno stesso, il 1941, con la famiglia, anche lui parente della maestra cieca. Un uomo bruno, robusto, abbronzato e senza un braccio, la manica della giacca ripiegata verso l'alto e appuntata con uno spillo di sicurezza alla spalla. Frequentatore assiduo della minima brigata, era un contadino piuttosto ricco e nullafacente che si inerpicava fin lassù con un calessino per poter giocare a carte con qualcuno. Non è colpa nostra se anche il contadino, chiamato Bacco per libagioni continue, era privo di una gamba, perduta durante la Prima Guerra Mondiale, e se al posto della gamba aveva un bastone con la punta di gomma. Questa la compagnia che doveva fare la passeggiata fino a un paese, due case e una chiesa, che stava più in alto e che, a differenza del luogo dove si trovava l'ospizio, aveva una sola cosa in più: un'osteria con spaccio di viveri, nei quali dominava l'odore del concentrato di pomodoro esposto in un grosso vaso al centro dello spaccio. Si diceva che dentro il vaso c'era un cucchiaione di legno e accanto al vaso minuscoli pezzi di carta oleata già pronti, in cui veniva travasato per pesarlo, mai più di mezzo etto. Laura si aggregò alla piccola compagnia dell'ingegnere e di Bacco, che volle anche lui fare il tratto a piedi, piroettando sulla gamba di legno, dei figli e della moglie dell'ingegnere, un'araba e di un vecchio dell'ospizio ancora in salute che faceva da bastone guida alla maestra cieca. Il figlio di Laura rimase all'ospizio per fabbricare una sua bomba segretissima, con cui aveva intenzione di far saltare il campanile. Erano, chissà perché, tutti allegri, forse perché così poche erano le novità offerte dal luogo, non arrivava nemmeno la posta, che il solo fatto di muoversi in compagnia per non più di una passeggiata creava quella frizzante attesa di scampagnate, di picnic, di cui ogni luogo di villeggiatura, grande o piccolo, ha diritto. Forse, ma solo forse, vi era nell'animo di Laura e dell'ingegnere di Bengasi una certa simpatia uno per l'altra, ma niente di più di una simpatia dovuta certamente al fatto che né Laura né l'ingegnere avevano fatto un matrimonio felice, che anzi erano infelici, l'ingegnere sapendolo, Laura ignorandolo. Ma la simpatia si limitava a parlare di Como. L'ingegnere era di Como, che Laura conosceva da bambina e dove era stata portata in uno studio fotografico per un ritratto. Uno sfondo di cartone del lago e dei monti, una piccola Lucia Mondella, però riconoscibile, che stava in una barchetta in mezzo al lago, e davanti al paesaggio di cartone una seggiolina di sambuco, dove Laura, con un vestito rosa e una sciarpa azzurra in vita, in piedi sulla sedia, una manina grassoccia appoggiata allo schienale, era stata ritratta. Oltre questo particolare, l'ingegnere credeva di aver individuato lo studio fotografico, la simpatia non andava. L'ingegnere aveva simpatia anche per il figlio di Laura e lo aiutava a fabbricare una nave a vapore di circa 2 metri che avrebbe dovuto chiamarsi Rex, come il famoso transatlantico. Ma il figlio di Laura era scorbutico e più che costruttore navale, come si è detto, artificiere in proprio e di nascosto, dentro un porcile abbandonato. Avevano un sacco da montagna con delle provviste, più che altro pane e vino, portato orgogliosamente da Bacco su una spalla come una giubba. Il sentiero che saliva al paese era sassoso, ripido. Qua e là apparvero capre e mucche con campanelli e campanacci, ma senza padrone, tanto che venivano a guardare in faccia i gitanti. Motivo forse di allegrezza, tra questi era una sorgente che avrebbero dovuto incontrare a poche centinaia di metri dal paese. La distanza tra i due luoghi era forse 3 chilometri. Sorgente di acqua minerale, tipo Fiuggi, e anche questo era pur sempre un tocco termale al luogo desolato. Laura era di carattere allegro e così facile alle illusioni della vita che il solo fatto di raggiungere in compagnia un paesetto di 3 case che non aveva mai visto la riempiva di ansiosa felicità. Non tanto per il paese che conosceva da lontano, lo vedeva ogni mattina aprendo la finestra, quanto per il tragitto, per la conversazione in compagnia, che del resto faceva ogni sera con tutti, che però in quel particolare momento e caso, di moto verso il luogo, doveva essere ed effettivamente era diversa. Certo, la meta da raggiungere faceva parte di quella felicità, ma il movimento estivo da un luogo verso l'altro, da quel luogo a quell'altro, tutta lì era la motivazione reale della felicità. Lo era anche per gli altri della compagnia, che erano stati altre volte bevuto l'acqua della sorgente e comprato la conserva di pomodoro e avevano descritto il paesino a Laura e ancora stavano descrivendolo come un luogo dove l'aria era molto più fina di quello di partenza. Laura si era fatta rossa. Camminava con impegno tra i sassi con certi sandali di gomma che le stringevano i piedi cicciuti e guardava con attenzione lungo i muriccioli che stavano ai lati del sentiero che non uscissero vipere o bisce nerastre di cui aveva terrore. Ma il piacere era grande, dell'aria che sentiva raffinarsi quasi ad ogni metro, delle capre che saltellavano, di un cervo volante che andò a sbattere contro il petto della gigantesca maestra cieca, del fatto di essere sola, senza l'amato ma scorbutico figlio e per di più in cammino, prima verso una sorgente di acqua che lei immaginava frizzante e poi verso un paese dai negozi sconosciuti. Il cielo era uno di quelli sereni di agosto, quasi bianchi, dove il sole come diluito nell'aria non si guarda e non si vede, i profumi delle erbe e degli escrementi degli animali molto forti, gli alberelli di bacche verdissimi e quasi unti, i praticelli sassosi, coperti di puntini volanti e ronzanti, tra i quali, di tanto in tanto, come una madre superiora, appariva una farfalla nera. Bacco cantava certe canzoni un po' sguaiate e un po' spinte, e la maestra lo colpiva violentemente senza sbagliare con il bastone. L'ingegnere di Bengasi pareva pensieroso. Forse pensava alla sua attuale condizione di disoccupato, a cui aveva detto però che non voleva pensare. La moglie, con i figli meticci, color olio d'oliva, erano un'appendice umile e straniera, come l'estremo lembo sfilacciato di un piccolo corteo al seguito del negus, ma senza il negus. Se non che si udì improvvisamente un boato, un'esplosione proveniente dall'ospizio, un boato breve, rapido, ma seguito da innumerevoli echi tra valli e boschi. Una capretta si impennò sulle 2 zampe, Bacco piroettò sul perno di legno e si girò. Nulla, non si vedeva nulla, ma l'ingegnere, che qualcosa sapeva dei traffici del figlio di Laura, consigliò di tornare subito indietro. L'umore di Laura cambiò di colpo, perché la gita che le piaceva moltissimo era quasi fatta, erano giunti a 10 minuti dal paese. Tornarono e ora in faccia avevano l'ombra, la luce del sole era sull'altro versante. Non era successo nulla, pareva. E solo più tardi, quando l'ingegnere ispezionò in lungo e in largo l'ospizio, la stalla, il pollaio, lo spiazzo tra chiesa e campanile, si avvide delle tracce dell'esplosione proprio ai piedi del campanile, già lievemente in pendenza, con 2 grosse crepe. Proibì nel modo più assoluto di suonare le campane. Bacco decise di scendere a valle per avvertire i carabinieri e fu in quel momento che il figlio di Laura, introvabile, uscì fuori e confessò piangendo la sua colpa. L'ingegnere minimizzò i danni per riguardo a Laura, ma insomma si trattava di lavori molto costosi. Ora come ora il campanile era pericolante, bisognava puntellarlo. La denuncia, accordata con la maestra, fu contro ignoti. Ma a causa del figlio Balzano, che bisognava sorvegliare, la passeggiata non si fece mai più.